Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi, oggi è il 28 maggio e questa è Italia in controluce. Il PD vince le amministrative, crollano Movimento 5 Stelle, PDL e Lega. Il crollo del Movimento 5 Stelle è ammesso pochi minuti fa anche dallo stesso Grillo, dicendo che il voto al PD e al PDL giunge dall'Italia peggiore. Sta di fatto che tutto questo accade mentre l'astensione si attesta intorno al 15% in più rispetto al 2008, i candidati del centro-sinistra vincono ovunque al primo turno oppure sono in testa nei ballottaggi, il Movimento 5 Stelle non va ai ballottaggi, i candidati del centro-destra vengono sconfitti al primo turno, vanno al ballottaggio con distacchi in negativo assai significativi rispetto alla centro-sinistra. Nelle città del nord, come per esempio Treviso, la Lega non è più egemone. Alemanno ci crede ancora, anche se Marino a Roma è avanti di oltre 12 punti. E voi cosa pensate di tutto questo? Soprattutto sul ridimensionamento, qualcuno ha chiamato crollo, ridimensionamento del Movimento 5 Stelle, anche se dobbiamo ricordare che si tratta di una tornata amministrativa e certamente non nazionale, e che poi pesa certamente il dato dell'astensione. Gli SMS al 349-238-6666. Ma anche un vostro giudizio su il PD, che tutti davano per morto e che in realtà si è aggiudicato sostanzialmente le amministrative, e anche un giudizio sul PDL, che invece non riesce a sfondare, e anche della Lega, che non è più egemone come in certi luoghi comandati, nel senso vero della parola, da sindaci come Gentilin a Treviso. 349-238-6666, vi ricordo anche Facebook, la pagina Radio 24 Italia in controluce, e la pagina invece su Twitter Radio 24 Italia in controluce. Cominciamo subito con Elisabetta Fiorito in collegamento. Sì Daniele, allora il dato di Roma lo conosciamo e abbiamo visto che in questa tornata però non è andata a votare un romano su due, e questo è quello che fa pensare per quanto riguarda queste elezioni amministrative. Perché? Perché da una parte è la vittoria dell'astensionismo, si dice, no, da un po' di tempo, dall'altra è chi non è andato a votare? Perché questo è il punto. Siamo sicuri che non è stato solo l'elettorato 5 Stelle? A me sembra che molto elettorato del centrodestra, deluso anche da quello che aveva fatto Alemanno, non è andato al voto, e quindi chi è andato al voto è l'elettorato, quello lì più tradizionalista, più attaccato alle elezioni, che è il centrosinistra. Intanto però qui a Montecitorio oggi si parla di riforma elettorale, e dopo che PD e PDL si sono aggiunti giudicati così le amministrative e i ballottaggi, hanno iniziato a litigare sulla legge elettorale, perché stamattina si è svolto un incontro tra Roberto Speranza e Renato Brunetta, i toni sarebbero stati pesanti, si ricorda che dal PDL si chiede la modifica minima al Porcellum, mentre il PD vorrebbe abolirlo totalmente per ripristinare il Mattarellum, e Gaetano Quagliariello mette le mani avanti e dice però non riguarda il governo, questa è una convergenza che bisogna trovare in Parlamento, anche perché domani ci sarà una mozione di maggioranza proprio sulle riforme costituzionali, e il PD non vorrebbe che venisse nominato o il Porcellum o la riforma della legge elettorale. Quindi Daniele, malgrado l'amministrativa, tutto in riforma elettorale, credo che sia uno degli argomenti più noiosi della storia. Ecco, quindi diciamo che torniamo alle elezioni amministrative. Grazie Elisabetta Fiorito, sono arrivati decine come sempre di SMS da Gregorio, da Catanzaro, 349-238-6666, che abbiamo bisogno di proposte serie, di persone pulite. C'è chi ineggia al Movimento 5 Stelle e dice vabbè, comunque noi siamo ancora forti nelle elezioni nazionali. e diventeremo ancora di più, come dice Michi. Chi se la prende con gli italiani che vota i corrotti e i disonesti? Un'altra ascoltatrice, Giovanna da Milano, dice: come ha ben detto Folli, è facile vincere quando i concorrenti sono deboli. Il PD, seppur debole, ha avuto la meglio sugli altri deboli partiti. Vincesse anche al ballottaggio, sarebbe comunque una falsa vittoria. Non concordo con questa idea, in quanto il PD ha vinto non perché c'era una debolezza degli altri partiti. Gli altri partiti erano il Movimento 5 Stelle, che era il primo partito fino a pochissime settimane fa, secondo tutti i sondaggi, e il PDL, in particolar modo Berlusconi, era cresciuto tantissimo nei sondaggi, e quindi è un'analisi che non mi trova minimamente d'accordo. Il punto è che buttiamo via un'ennesima occasione per cambiare. E noi siamo cittadini ottusi ed ignoranti, dice un nostro ascoltatore. Ugo dice che Grillo è un codardo perché non sa assumersi le sue responsabilità. C'è chi, come Fabio, dice che ha ragione Grillo: gli italiani non sono bastati 20 anni di disastri politici, se ne renderanno conto soprattutto in autunno. Grillo, dandoci dell'Italia peggiore, fa il paio con quella parolaccia che aveva detto agli elettori di centro-sinistra Berlusconi, cioè coglioni. La Lega è stata ridimensionata dalle procure, mentre il PD gode delle sue vicende giudiziarie, dice Stefano da Prato. E allora cominciamo con l'altro collegamento di oggi, che è con Andrea Viale. Sì, Daniele, per parlare del Movimento 5 Stelle, che naturalmente è costretto a fare i conti con questa pesante battuta d'arresto che ha subito alle comunali, lo dicevi, non ci saranno suoi candidati ai ballottaggi e in alcune città come Siena e Brescia, ad esempio, ha perso il Movimento 5 Stelle addirittura quasi i 2/3 dei voti che aveva invece ottenuto appena 3 mesi fa alle politiche, un risultato nettamente negativo che tra l'altro ha anche alimentato malumori nella base. Un paio di ore fa, soltanto un paio di ore fa, Beppe Grillo ha rotto il silenzio per dire la sua, ha fatto in parte autocritica, ma soprattutto è passato al contrattacco sul suo blog. Chiaramente ha scritto che il Movimento 5 Stelle ha sicuramente commesso degli errori, però è stato anche l'unico che nella storia ha tagliato lo stipendio ai suoi parlamentari e ha restituito 42 milioni di euro allo Stato. Il comico, dicevo, non ha risparmiato critiche pungenti, è passato all'attacco, non ha risparmiato critiche pungenti, soprattutto nei confronti di quegli italiani che domenica e lunedì hanno votato PD e PDL. L'autunno freddo è vicino e forse per allora capiranno questi italiani, ha scritto Grillo, che votando chi li rassicura, ma in realtà ha distrutto il paese, si stanno condannando ad una via senza ritorno. Questo è il pensiero di Grillo, che in un lungo post ha invece ringraziato quelli che hanno rischiato, dice, dando il loro voto al Movimento 5 Stelle, movimento che dopo queste elezioni potrà comunque contare su quasi 400 consiglieri comunali, il doppio di quelli attuali, conclude Grillo, Daniele. Bene, grazie. Allora siamo in chiusura e vi leggiamo ancora un po' di vostri SMS, quindi le vostre opinioni, come Luciano da Lucca che dice che nell'amministrativa il Partito Democratico è sempre stato molto forte, ben organizzato sul territorio con le sezioni, ma questo non può illudere che nelle prossime elezioni saranno schiacciati dal fatto che hanno collaborato, dice Luciano, con il Popolo delle Libertà. 349-238-6666. Gli italiani, secondo Giusi, hanno punito l'intransigenza grillina e si sono o ripolarizzati oppure scocciati. Chi se la prende coi politici? Un altro ascoltatore, Matteo da Modena, dice che gli italiani hanno paura del cambiamento e purtroppo così siamo destinati al fallimento. Io credo ancora nel Movimento 5 Stelle, non capisco come si continui a votare gli stessi partiti che ci hanno portato allo sfacelo. E così via, dunque, questi i vostri SMS, come sempre, tutti i giorni alle 13:30 con Italia in controluce.